rotto i coglioni con questo programmino. Perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ci vorrebbe un avvocato. Ho sbagliato, grazie da capo. Buonasera, non metti mano alle pistole, vero? Ti prego. Allora ragazzi, c'è la risposta della... Ti prego. C'è la risposta della Bimbi. Sì, ti prego, vabbè. Ti prego. A voi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Ma cosa ti fa cagare? No, non ho capito. Mi piace questo intercalare di Adinolfi. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. A me invece mi piace tantissimo. Un mondo dove ognuno fa il cazzo che vuole, ognuno scopa con chi vuole, promiscuità, no, ma libertinaggio. Sì, promiscuità, libertinaggio, matrimonio gay. A me piace tantissimo. Ti prego. Prego. Sì, ti prego, d'accordo. Esatto. Questo era Jacopino, il presidente dell'Ordine dei giornalisti. Vabbè, torniamo seri, dai. Leggo che ci saranno neonazisti a Milano per il raduno. Vabbè, rock. Dai, è roba normale. I raduni si fanno, dai, si canta, si balla. A te piace un mondo così? No, ma... Neonazisti a Milano per il raduno rock. Ma chi se ne fotte? A te piace un mondo così? Vai, regia, per cortesia. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Ma no, ma con i neonazisti. Ma sì, sono dei concerti. Sì, sì. Sono dei concerti. No, concerti, dai. Un corno. Bandire, arrestare tutti. Ma avanti. Come? Arrestare avanti, tutti. Avanti, smettila. Avanti. Oh, fra poco forse cacceranno due dei 5 Stelle. Un tale Artini e Pinna. Perché pare che non abbiano restituito tutti o parte dei soldi che dovevano restituire, parte dello stipendio. Questi discorsi mi mettono una tristezza infinita. Una tristezza infinita. Ancora si stanno discutendo sui soldi, cosa restituire, quanto tu le hai dati alla Caritas, dovevi darle alle piccole e medie imprese. Puttanate inaudite, che sono uno dei motivi per cui Grillo è crollato. Ma abbiamo la risposta di Bindi alla Moretti. La Bindi invidia alla Moretti per l'estetista, questo è fondamentale. La Moretti, il pezzo più interessante di quella intervista è che dice che lei va dall'estetista tutte le settimane. Io provo una grande invidia perché io riesco ad andare al parrucchiere una volta a settimana, perché ho anche i miei amici parrucchieri che mi tengono aperto lunedì mattina. Quindi io, se una donna riesce a mettere insieme tutte queste belle cose, sono una grande invidia. Beh, però è la risposta giusta della signora Bindi, che non ha voluto fare la serie, eccetera. Dici invidio alla Moretti perché va dall'estetista ogni settimana. La cosa penosa è la Moretti che ha tentato di ritrattare dicendo: beh, mi hanno tagliato quell'intervista, non volevo dire, l'hai detto, punto e basta. Oh, secondo Gasparri, Renzi finirà all'isola dei famosi e non alla testa del centrodestra. Gasparrone, grandissimo. Renzi il capo del genere, un altro, Maria Berlusconi, certo, Elia, però, la Chirico, ma non sarà Renzi, però, dai, se lei è convinto Renzi di questo, finirà all'isola dei famosi, è nulla assoluto, non so ma su, finirà dai. Renzi, però possiamo all'isola pensare, dei famosi, però dobbiamo essere onesti. La previsione di Gasparri: Renzi finirà all'isola dei famosi. E Gasparri dove finirà invece? Non lo so, però Gasparri è lì da 30 anni, di fo di raffa, arrabattandosi. Scusa, per questo dico che Gasparri dove finisce? Giuliano Ferrara è imperdibile, contro Salvini, dice che Salvini è uno di serie B come l'Albino Leffe. Sentiamo. Salvini, io non la saluto politica, trovo fuori da questa dimensione, capito? Può fare dei colletti di quartiere, così nei campetti, al calcetto. Se non è un solista, è uno di serie B, è la serie B. È come si chiama? L'Albino Leff, che può certo fare dei gol, ma non in Premier League, no? Però la cosa più interessante in realtà di tutta questa cosa che dice Ferrara, Salvini che non è leader, l'unico leader Berlusconi che può dire tutto e il contrario di tutto, può stare con Luxuria a favore della famiglia, può dire che Salvini è il centravanti e poi il giorno dopo invece svegliarsi e dire no, è Alfano il mio erede perché Berlusconi è così, e secondo Ferrara può fare di tutto perché ha creato il centrodestra e lo può distruggere. La cosa più interessante è che a Ferrara piacciono i transessuali. Io questo ho trovato eccezionale ieri. No, quando diceva, è intervenuto qui la Zanzara. No, diceva, ma sei impazzito? Ha detto proprio che lo eccitano. Ma no, ma non hai capito. Ma quale senso? I trans mi eccitano. Ma l'ho detto proprio, lo eccitano. Luxuria è una persona adorabile, io la ebbi a 8:30 e tra l'altro la chiamai Vladimir e lei mi disse, o lui mi disse grazie, sei l'unico che pronuncia bene il mio nome, perché da piccolo starò a morire. Però a te i trans non piacciono tanto, si tra... Vladimir, come non mi piace, gli altri da morire. I trans no, anche da morire, trans. Mi eccitano anche. Ma non è vero. Ma stai scherzando, ma la sola idea di un transessuale è eccitante, basta è come una didascalia, transessuale. È una cosa meravigliosa, l'ermafrodito, è una cosa stupenda. Ho una notizia per te, Parenzo, Stefania Nobile, e voi sapete chi è Stefania Nobile, figlia di Vanna Marchi, vuole fare un programma in radio. Senti, alla radio. Senti. Viva la radio, ma proprio tutta la vita. Anzi, cogliamo l'occasione. Noi vogliamo fare un programma in radio. Chi ci vuole? Le pillole della Nobile, del Conte. Dai, e magari della Marchesa. Diteci chi ci vuole. Noi vogliamo fare una trasmissione in radio. Allora? Sentiamo tanti gatti che strillano in radio. Vorremmo fare anche noi i cani che abbaiano. Ok? Dai. Ma è una cosa pazzesca. Ha ragione David. A voi piace un mondo così? A voi piace un mondo così? Che dici? Eh? Abbiamo un programma alla radio con un microfono che vi vendiamo a 45.000 euro. Ma che c'entra? Ma cosa? L'unico programma. Esatto, l'unico programma dove chi ascolta deve pagare. Ma perché? Perché è così, d'accordo? Vabbè, dai ragazzi, torniamo seri perché qui è in atto una cosa importante sul blog di Grillo, con una procedura anche bizzarra. Prego. Cioè la votazione. Ti prego, non mi fare ridere, cazzo. No, ti prego, deve diventare da oggi fino alla chiusura della stagione 2014. E della Zanzara, così. Della Zanzara, deve diventare il leitmotiv. Ti prego. È in corso una procedura che è quella di espulsione di due signori dei 5 Stelle. Uno, voi direte chi se ne frega, no? Chi se ne fotte? Come direbbe Dagospia, agenzia masticazzi, ed è anche corretto. E vogliamo chiedere al professor Paolo Becchi cosa ne pensa. Professore, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Come andiamo da Genova? Che tempo fa? È brutto, sto per andare a Milano, mi vengono a prendere, ma qui hanno già dato allerta 2. Allerta 2? Cioè, che vuol dire? Allerta 2 vuol dire che il pericolo, insomma, di nuovo di alluvione. Ma scusi, pericolo, professore. Domani sono. Guarda, si è passati da. Io non credo che succederà niente. Al piove governo ladro a scuole. Cioè, piove scuole chiuse. Cioè, chiudono le scuole anche con un soffio di vento, tu dici. Esatto, domani sono chiuse. Però scusami, professore, ma secondo te questa cosa meteorologica, da che cosa, tu che hai tutte le tue teorie ogni tanto, ma queste allerte meteorologiche, queste, da che cosa vengono? Sono un complotto di qualcosa, no? Sì, ma no, adesso è soltanto una precauzione, tenendo conto che i disastri che ci sono state, le persone che sono morte, adesso per l'appunto, invece di cambiare, invece di pulire i fiumi, invece di pulire il fondo dei fiumi, insomma, e fare queste opere di intervento, è molto più semplice far chiudere tutti in casa. In un paese normale si sarebbe provvisto a cominciare a fare qualche cosa, invece appena piove tutti chiusi in casa, gli ultimi piani, tutti sbarrati, e tu non puoi andare a Milano. Senti, però ti chiedo una cosa. No, a Milano vado perché mi vengono a prendere adesso, se no si incazza cosa, come si chiama? Telese. Però scusa, professore, ma tu sei d'accordo con le espulsioni? Ma io sì, io come iscritto addirittura. Hai votato? Hai votato sì, a favore delle espulsioni. Oh, abbiamo uno in carne e ossa. Finalmente, perché sembra una procedura così. A parte che forse bisognava passare per l'assemblea, dicono. Becky Stalin. Ma che c'entra Becky Stalin? Uno non può votare a favore dei fascisti e dei falsi comunisti, si diceva. Ma la possibilità. Di votare, e poiché non sono il movimento ha pochissime regole, sì. Una di queste è almeno che sia rispettata dai portavoce. Se questa regola non viene rispettata, è giusto che questi portavoce ne... Il problema è che questi portavoce ormai si credono degli onorevoli, ma dal punto di vista formale lo sono, sì. Ma dal punto di vista del movimento no, sono dei semplici portavoce, cioè sono delle sentinelle, diciamo, come esatto, ma devono fare gli interessi dei cittadini, non i loro interessi. Al momento si stanno facendo i loro interessi. Questo tutti? Questo è tutti. Giusto fare un po' di pulizia, ecco. È giusto fare pulizia, però questi qua dicono, certo. Questi dicono, una dice la Pinna di aver dato i soldi anche alla Caritas, l'altro ma, che... Io non lo so, potrà averli dati dove vuole, ma non ha rispettato da chi doveva darli le regole prefissate dal movimento. Cioè le se tutti gli altri, tu dici... Non ci sono. Tutti gli altri si comportano in un certo modo, e se la Pinna e quest'altro si sono comportati in modo diverso, per il movimento è inaccettabile. Però scusa, fammi dire una cosa, non sei obbligato a diventare medico, no? Sì. Questo è chiaro, ma una volta che sei diventato medico devi rispettare il codice deontologico della tua professione. Sì, loro sì, hanno firmato un codice e non l'hanno rispettato. Inutile che adesso vadano in televisione a piangere e a dire siamo stati maltrattati e via discorrendo, e niente, così. Io posso fare certe cose, ma io non sono niente, io sono un iscritto. Però non ha torto, quindi... Becchi, quando dice questa cosa. Parenzo, al di là di quello che uno può pensare su Grillo, di cosa stiamo parlando? No, aspetta, ragazzi. Aspetta, non ha torto. Se tu, firmi un accordo per cui una parte del tuo stipendio deve andare a finire a Pinco Pallo, in questo caso a un fondo per le piccole e medie imprese, tu dal giorno dopo fai questa roba qui, altrimenti questi te cacciano. Mi sembra normale. Sì, non... Abbiamo il traffico, fermi un attimo. Volevo dire al signor Barisoni, professor Barisoni, che ha dimenticato come al solito il suo cellulare. Poveretto, ho capito, ma ogni volta è così. E siccome qui appaiono sempre messaggi, telefonate, chissà perché proprio a quest'ora. Uno c'è scritto. Perché uno finisce la trasmissione. In uno c'è scritto Lorella, in un altro Luisa. Ma perché devi leggere i nomi delle persone, che hanno chiamato? È una roba incredibile. Ho capito, ma un altro c'è il numero privato e poi un messaggio. Chiamami subito, ho bisogno di te. Fai come quello che ho detto, solo i nomi delle persone che hanno chiamato. Ogni volta è così, ma è una cosa incredibile. Non è possibile dire chi lo chiama. Ma quello sono dei nomi che sono apparsi, io riferisco così. Ma non è che io riferisco. Vabbè, c'è, scusa, il traffico. Si torni a prendere questo cellulare, signor Barisoni, perché qui gente chiama di continuo. Uno c'è scritto, ti giuro, numero privato, poi a messaggio, richiamami subito, ti amo. Ma è una cosa pazzesca. Vogliamo sentire Bianconi quando dice che Renzi, Mr. Bean e Berlusconi è andato. Poi ha detto che effettivamente non aveva pronunciato queste parole. Beh, numero uno è Bianconi. Bianconi ormai a ruota libera ovunque. Sentite. Qui invece abbiamo Mr. Bean e signora che ci fanno un disegno di legge e noi diciamo che collaboriamo per le riforme. Aspetti, no, Mr. noi Bean... collaboriamo col no, governo. Aspetti, Mr. Bean sarebbe Renzi e signora sarebbe la Boschi, l'aiuto? Non mi dica che non somiglia a Mr. Bean, con tutto. No, non lo so, ma è allora uguale, è uguale. Ma Berlusconi chi è allora in tutto questo? Berlusconi ormai è andato sotto questo profilo, non c'è più da scherzare. È andato. Non è più oggetto di scherno, mi pare. No, guardi, non lo è mai stato. Un grandissimo però, uomo, lo è ancora, è centrale, ma secondo me, sì, deve rendersi conto che il centrodestra va veramente rifondato. Allora, Parenzo, dalle cronache del processo di Bari dove è imputato Berlusconi. Sì, ho letto. Signora Daddario sì, ha detto, oltre al fatto che si è messa a piangere di fronte alle registrazioni di quando chiedeva 200 euro per una prestazione, ma al di là di questo, che riguarda la professione della Daddario, una parte della sua vita, diciamo, la signora Daddario ha detto, sono fuggita dal letto di Berlusconi per evitare un'orgia. Questo lo trovo meraviglioso. Sono fuggita dal letto di Berlusconi per evitare un'orgia. Io devo leggere più messaggi, tra l'altro. C'è uno che mi ha scritto, Professor Becchi, so che lei tanto non si scandalizza. C'è uno che mi ha scritto: Cruciani, la mia ragazza mi sta facendo un grasso pompino, questo dice, mentre ascoltiamo la Zanzara. Io adesso vorrei dire Mario da Piacenza. Come beato lui, cosa vuoi che ti dica? No, ma infatti sì, beato lui, lo dico anch'io. Adesso, Mario da Piacenza, non è vero, dimostrami che è vero. A voi chiamami. Piace un mondo così? A voi piace un mondo così? A noi sì, piace un mondo così. A noi piace. A me, a te fa schifo un mondo così? No, questo non. Ah, a te un mondo così fa ti schifo? Ti prego. Allora, il professor Paolo Becchi dice che vanno espulsi. Professore, è l'unico, guarda, è l'unico che uno può chiamare professore, perché sì, tanti che chiamiamo professori poi non hanno la questo cattedra. Il professor Becchi ha la cattedra, almeno quella ce l'ha. Finché non gliela tolgono via, c'ha la cattedra a Genova. No, non fatemela togliere. No, ormai diciamo questa possibilità te l'abbiamo data tempo fa, ma se non te l'hanno tolta un anno e mezzo fa, bravo, non te la tolgono bravo, più. Allora, bravo. Però, siccome Bianconi dice che Berlusconi è andato, anche secondo te Grillo è andato invece? Grillo è un po' andato, no, dai, secondo su. Secondo me sì, però secondo me Grillo potrebbe anche riprendersi. Però per ora è diversa la cosa. Ma ormai se ne fotte del movimento, Paolo, dai. Ma non se ne fottesse veramente, forse non avremmo questi post più recenti che ci sono stati su Pizzarotti e questa espulsione di oggi. Ma Pizzarotti vuol come dire lo giudichi? Uno che si vuole fare gli affari suoi, che non gliene frega. Trotsky dei 5 Stelle. No, Pizzarotti può essere effettivamente un grosso rischio, perché se si scoagulano intorno a lui molti parlamentari, insomma, può rappresentare un'opposizione. Ah, può fare la fronda a Grillo. Tu comunque, tra Grillo e Pizzarotti, al di là delle tue discussioni che hai avuto, dei tuoi giudizi su Grillo, scegli sempre Grillo. Grillo ci siamo mandati a fare in culo non so quante migliaia di volte. Anche recentemente? Sì. Ma per telefono pure? Sì, no, per telefono magari no, più che altro per posta elettronica o per... Ah, proprio vaffanculo, l'hai mandato proprio vaffanculo. Esatto, sì, però è una cosa diversa, io non avrei dubbi, cioè Pizzarotti aveva un programma, anche lì, coerenza, l'inceneritore, questo cacchio di inceneritore è chiuso o no? No, è aperto, e allora tu non sei stato coerente, tu hai fatto tutta una campagna elettorale, sei diventato sindaco con il fatto che si sarebbe chiuso l'inceneritore. Sì. Questo inceneritore c'è ancora, allora prendi posizione e dire: signori cari, scusate ma non era possibile, oppure mi rimetto a voi, e invece no, adesso fa la fronda a Grillo. Io guarda, su questo, no, ma su questo io do sempre ragione a Becchi, no, perché in realtà ragione. Quelli che sono stati eletti, ma scusa, tu sei veramente incazzato ma con questi qua sapeva che vogliono andare in televisione, Paolo? Con ma questi che adesso sì dicono dobbiamo andare in televisione, ma certamente, ma scusami, ma stammi a sentire, se sul io sono, va bene, ho la mia autonomia, faccio quello che voglio, ma non ho nessun impegno. Ma se sul blog c'è scritto di Grillo 4-5 volte i portavoce non andranno più in televisione, tutto al più abbiamo scelto di andare nei TG, le televisioni non vanno bene per il movimento, non ci andranno più, io mi domando, quelli che sono in Parlamento leggono quello che scrive il blog, che significa la linea del movimento, o si fanno i cazzi loro? Mi sembra che si facciano i cazzi loro, te lo do si io. Fanno i cazzi loro e vogliono anche avere tutti i soldi, se li tengano, però escano. E questo Rizzetto, che si è presentato in trasmissione dicendo io me ne voglio andare in trasmissione, giusto andare in trasmissione, come lo consiglio? Benissimo, fatto. Scusa, che io vado in trasmissione. Rizzetto, uno di quelli che si presenta in trasmissione dicendo è giusto andare in televisione, eccetera. Andrebbe semplicemente detto, ma insomma leggi quello che c'è scritto sul blog, sei d'accordo su quella cosa lì, ne discutiamo insieme magari, ma prima di andare lo chiedi, ma c'è un ufficio di comunicazione nel Movimento 5 Stelle o sono tutti all'Isola dei Famosi? Nella comunicazione 5 Stelle, dove sono all'Isola dei Famosi o sono lì? Credo che siano anche pagati, Sì, ma sai, i deputati e i senatori, perché un deputato si deve far dire, si ribellano. Da un quisque de popolo qualunque, se può andare in TV o no, ma soprattutto ognuno avrà anche la propria autonomia, no? Visto che non è che dicono chissà che cosa di eversivo contro Grillo, avranno la loro autonomia, ma che sei Stalin, il professor Becchi Stalin, dai, che fai le purghe. No, ha ragione Becchi, purghe grilline, dai, roba incredibile. Io preferivo Amadeo Bordiga, cioè con Stalin non c'è proprio niente. il mio il bordighismo, cioè. Il bordighismo a me piaceva quello. Vabbè. Quindi le espulsioni mi vanno benissimo, nel senso che purezza si cresce, ma lo diceva anche la Salle, cioè i movimenti hanno bisogno ogni tanto di far pulizia, solo che poi bisogna, insomma, il nocciolo duro deve ripartire, e deve ripartire con un programma. Il problema, insomma, non come sono li consideri, certo, hai ragione, come li consideri questi qua che vogliono andare in televisione, che si ribella alla linea di grill, eccetera, come li consideri, brutalmente, come li consideri? Ma no, non li considero affatto, secondo me dei non poveracci. Sono neanche degni, esatto, non sono degni di considerazione, sono una rovina per il Movimento 5 Stelle. Ah, l'hanno fatto perdere loro il movimento? L'hanno fatto perdere loro il movimento, dici? Ma certamente, non è soltanto colpa. Le elezioni in Calabria sono risultato negativo. Se tu hai 4-5 parlamentari, sì, che si fanno la guerra tra di loro in Parlamento, è colpa loro, non di Grillo. Devo chiudere. Ciao Paolo, grazie. Scusa, a presto. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto. Le caguli. Vogliamo lanciare un bel tipi da zanzara con il mitico, come si chiama quello da Campobasso? Come si chiama da Campobasso? Buon Antonio, Franco, Giovanni, non c'è, adesso dopo lo lanciamo. Ciao Crucial! Patrizia Daddario, eravamo quattro ragazze sul letto con Berlusconi. All'improvviso ho sentito che mi accarezzavano in un posto in cui non dovevano. Siccome io un'orgia non l'ho mai fatta, sono corsa in bagno perché volevo andare via. Queste sono le cose, amici miei, caro Parenzo, queste sono le cose che mi fanno venire l'adrenalina. Berlusconi mi ha raggiunto e mi ha calmato perché aveva capito che avevo problemi. Le altre tre ragazze hanno detto: amore, vai via? Dopo avermi tranquillizzato, il presidente mi portò in una stanza e mi fece vedere le ville che ha nel mondo e parlammo di materiale edile. Di materiale edile, David, materiale edile. Ma ci sei o no? Non ho capito. David! David? Questo non c'è. Dopo un po' lasciai il palazzo e tornai in albergo. Ma dove cazzo sta questo imbecille? Beh, mandiamo TG3 intanto, va. Imbecille? In studio. TG3. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. Non versano parte dello stipendio. Grillo mette al voto l'espulsione dei deputati Artini e Pinna, molto critici sul movimento. La replica: tutto falso, ecco i bonifici. Renzi, l'Italia non è in mano ai furbi, combattere l'evasione semplificando il fisco, sulle riforme ampio consenso, Boschi su quella del lavoro, prematuro parlare di fiducia. Fitto stronca Salvini, il leader si sceglie con le primarie, Alfano contro la Lega, non consegniamoci alla destra estrema, Maroni siamo uomini liberi e capaci. Sentenza dell'Unione Europea, oltre 300.000 i precari da assumere, i sindacati si applica alla scuola e al pubblico impiego, il governo ridimensiona i numeri. Tentata rapina ad un portavalori sulla A1, banditi gettano chiodi sulla strada e danno fuoco a due tir e a un'automobile, il colpo fallisce e fuggono, autostrada nel caos. Mentre a Ferguson proseguono le proteste, cresce il caso del ragazzino nero di 12 anni ucciso sabato a Cleveland dalla polizia mentre brandiva una pistola a giocattolo. A migliaia a Matera per il casting dei remake del colosso americano Ben-Hur, per guadagnare alcuni giorni di lavoro, in fila anche tanti operai in cassa integrazione. Ci vorrebbe un avvocato, meglio se un nostro... ho sbagliato, grazie da capo. Oh, a proposito di avvocati, Allora, Carlo, sentite questa augusta conversazione tra l'avvocato professore Carlo Taormina e un personaggio curioso. Taormina su Twitter: Berlusconi è impazzito o rincoglionito? Quale liberale darebbe il voto a Salvini? A questo punto se ne vada a quel paese, nessuno lo ascolti. Benissimo. Considerazione dell'avvocato professore Carlo Taormina. Risposta di Sara Tommasi. Ah, Sara Tommasi: avvocato, è il momento delle scelte nette. Anche noi abbiamo il Matteo buono, usiamolo, altrimenti si perde per i prossimi 15 anni. Risposta del professore Carlo Taormina: non si può ingoiare un rospo così pur di vincere. Risposta seria, eh? Un rospo così pur di vincere. Perché si bloccherebbe un percorso di rifondazione. Liberalismo, non fascismo. Bah. più bella è quella della, da Dario, ragazzi, è straordinario, cioè, è un racconto stupendo, è un racconto meraviglioso. Hanno parlato a un certo punto, dice lei, che hanno parlato di materiale edile, Parenzo, materiale edile, il materiale edile. Ma è una cosa pazzesca. Enrico da Parma, vai. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Dimmi. Io volevo dirvi una cosa importante. Io ho sentito prima Becchi che parlava della città di Parma riferendosi a Pizzarotti. E sì, io credo che abbia detto un sacco di cose che non corrispondono alla verità. No, ma non ha parlato di Parma. Ha detto semplicemente che se uno promette una cosa in campagna elettorale, lei poi la deve mantenere. Sì, però quello che Becchi non sa è che il famoso spegnimento dell'inceneritore. No, di Parma. Ma scusi, a noi però non ce ne frega niente di quello che è successo dopo a Parma, capito, del concreto. Capito, la cosa. Cioè, Becchi faceva un discorso con riferimento a Pizzarotti, poi il perché non sia stato possibile chiudere l'inceneritore va benissimo, cioè, però se uno lo promette e poi non riesce a farlo. No, però quello che volevo dire è che lui ha detto che Pizzarotti ha vinto le elezioni grazie a questa promessa, ma non è così. Perché vabbè, ma le ha vinte per un altro motivo molto più chiaro. Ma è perché gli altri, perché il centrodestra era finito, il centrosinistra non aveva un candidato credibile, questo è perché Grillo era al massimo della sua potenza elettorale. Esatto, è stata una punizione dell'elettorato di centrodestra che si è riversato completamente. Sì, ma non è importante capire perché ha perso le elezioni, era un'altra la cosa che voleva dire il signor Becchi, ma comunque va bene così. Roberto, no, ma io sono d'accordo con quello che ha detto Becchi sulla coerenza. Roberto da Pisa, grazie Enrico. Roberto. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi, buonasera, dimmi. Parenzo. Allora io volevo dire questo, non capisco sinceramente tutte queste polemiche sul fatto che il Movimento 5 Stelle abbia messo, diciamo, ai voti la possibilità di espellere dei parlamentari perché comunque non rispettano i patti che hanno sottoscritto preventivamente quando si sono candidati. E comunque si nota molto il fatto che tutti i mezzi di informazione velocemente mettono subito come prima notizia queste faccende che magari... Qual è il problema? Anche... Scusi, non se ne può parlare, non ho capito. Se ne può parlare, ma si cerca sempre di mettere in cattiva luce tutto quello. Ma nessuno che... cerca di mettere in cattiva luce. Se il Movimento 5 Stelle vuole cacciare due persone, due parlamentari, è una notizia e i mezzi di informazione se ne occupano, punto. Sì, ma si è notato bene però che comunque quando il Movimento 5 Stelle ha rinunciato a 42 milioni... No, se ne è parlato, non si preoccupare. Quando molto. Si è messo in evidenza... Se ne è parlato molto, non c'è nessun complotto... Ci sono i dati finali di quel sondaggio, ma si può poi cacciare uno? Vabbè, per allora sondaggio? Quali sono? È una cosa pazzesca. Altri due cacciati, eccolo qua. Altri due cacciati. Mi sembra che sia ufficiale, no? La cacciata di questi due. È no? Assolutamente ufficiale. Adesso ti do i dati definitivi. Hanno partecipato alla votazione, dice Grillo, 27.818 sì. iscritti, certificati, sì. non si sa da chi. Ha votato sì il 69,8, no il 32. Ma è tutto scontato. È evidente che il blog di Grillo non può dare una cosa, non mi può. Sembra ovvio. No, non può decidere contro la volontà tutto di Grillo. È certificato. Ma da quando? Tutto mai. Certificato. Ma no. Andrea, a da voi Pesaro. Piace un mondo così? Beh, sì, Andrea, dimmi. No, salve, io lo so che dopo lei si incanta e dice che io devo cambiare canale, se non mi va bene. Ma non lo so, però, di che sta parlando? Lei... Di che sta parlando? Che lei prima ha dato in anteprima la notizia che un signore... No, in anteprima non c'è nessuna notizia, quale anteprima? La cazzata che ha detto prima, che c'è un signore che c'è una cosa che gli sta facendo un pompino in diretta. Sì, a parte che lei lo sta ripetendo se non le piace, comunque... No, sì, c'è un signore piace, che mi ha scritto, non Cruciani... Non per niente, non so cosa c'entra, o lei c'ha delle pruderie... No, ma io ho letto un messaggio. Non mi venga a dire che alle 6:50 è normale che io alla Radio 24 devo sentire che c'è uno che si sta facendo fare un pompino all'ambrosa mentre sente Radio 24. No, innanzitutto lei dovrebbe parlare da un'altra postazione o in una situazione differente o con un telefono diverso perché non capiamo nulla. Se no, lei sta dicendo che si è scandalizzato per il fatto che ho letto quell'SMS. No, ma non mi scandalizzo di niente. Mi dà fastidio sentire le cazzate per radio. Le cazzate uno le dice che sente al bar con gli amici, che se ne fa. È esattamente quello che succede qui, forse non ha capito bene, cioè forse non ha capito bene, lo diciamo anche all'inizio. Ma la continuerò ad ascoltare perché siete molto simpatici, però non capisco veramente che cosa possa portare il miglioramento. Vabbè, ma adesso la vostra trasmissione di dire che questo qui si fa fare i pompini in diretta mentre sente la zanzara, non fa manco ridere, ecco. Beh, a lei non fa ridere, un sacco di gente si è messa a ridere, altri non fanno, ma come è normale che sia di fronte alle frasi che si dicono, alcuni ridono, altri non ridono, adesso per lei non si lei non è una cosa da ridere, va bene. Cioè... Va bene, ti voglio bene lo stesso. Ciao, ciao, non si capisce niente. Daniele, provincia di Siena. Eccoci, io c'ho il problema opposto. Cioè? Nel senso che vorrei ascoltare Radio 24 e la Zanzara. Poi però c'è un pezzo di strada in cui mi entra Radio Mater. Radio Mater, che sarebbe? Radio Maria. Radio Mater, non so se è Radio Maria. No, non è Radio Maria forse. Radio Mater, quindi, non so. Voi che parlate di queste cose e mi piacerebbe ascoltarvi. Invece c'è qualcuno che mi entra dentro con una mezza preghiera. Amico mio, sono problemi. Il sacro e il profano. Quindi io sento un'altra trasmissione. Sì, che poi questi hanno sempre, come dire, una presenza sulle frequenze pazzesca. Radio Maria, Radio Mater, queste cose. Quindi, hanno una potenza incredibile, una potenza pazzesca. Soldi da spendere per le frequenze. E poi dopo uno che mi dice Santa Maria, Madre di Dio, viene fuori una trasmissione un po' confusa. Beh, questo è vero, però non posso dare torto. Vince sempre sull'odio comunque. Ma che c'entra, scusa? No, niente. Ma questo è vero, ho capito, ma la trasmissione deve essere una, cioè io voglio sentire. Ho capito, protesti con Radio Mater, protesti con Radio Maria, li mandi a fare in culo, non mi coprite il segnale quando c'è la Zanzara. Stefano da Lodi, dai, Stefano. Sì, ciao. Cruciani, sono. Dimmi. Stefano. Ascolta, io come spiegavo in redazione, ho spiegato anche alla redazione, collaborando con un teologo laico. Sì. Ma che cazzo è un teologo laico? Ma amico mio, sono 19:29, mi parli di teologi. Sì, adesso ti spiego l'occasione in cui sono venuto a conoscenza di una specie di lista di proscrizione a cui appartiene anche Parenzo. Lista di proscrizione. Allora, per capire i motivi per cui Renzi, per esempio, ha vinto in Emilia Romagna, però è calata l'affluenza, eccetera, eccetera. Per capire questa roba qui, Parezzo, se proprio uno lo vuole capire, bisogna scavare dentro il mondo della FIOM, della CGL. Sembra che ci sia stato così. L'appello, dici, del segretario. Così ci raccontavano. Così no, ci raccontavano. Sì, così ci raccontavano i giornali nei giorni scorsi. C'è stato un appello del segretario della FIOM praticamente a non votare per Bonaccini, per il PD di Renzi. Cioè l'estrema sinistra, la sinistra, chiamatela come volete, vuole fare le scarpe a Renzi. Noi avevamo, capito qualcosa nei giorni precedenti le elezioni con l'intervento di un mito assoluto, tipi da Zanzara, Gian Pietro da Bologna, sentite. Tipi da Zanzara. Gian Pietro Bologna. Salve, buonasera. Dimmi. Io telefonavo perché rispetto a quello che dice il paraculo di Renzi, ok, rispetto a che i sindacati organizzano, sono lì solo per organizzare gli scioperi, eccetera, eccetera. Io sono un delegato sindacale, sì. Non sono d'accordo con la Camusso, perché per me la Camusso non fa abbastanza scioperi. Addirittura, bisognerebbe fare più scioperi. Scioperi. E grazie alla Camusso e altri sindacalisti come Bonanni, che poi vanno in pensione con 5.000 euro al mese e dicono ai lavoratori di essere compatibili col mercato e con le aziende, sì. E intanto lui va in pensione con 5.000 euro al mese, si dovrebbe proprio bloccare il paese. Questo è un sindacalista della FIOM della Toyota, sentite ancora. Bisognerebbe nazionalizzare le aziende e espropriare, sì, i capitali come Airiva, che sono degli assassini, sì, ok, che sono sempre stati aiutati dal potere politico, sì, dalle informazioni, dai giornalisti, sì, da chiunque. Scusi, nazionalizzare non solo, immagino, l'IVA, i lavoratori, perché tutti i dirigenti pubblici. Ma cosa bisogna nazionalizzare, scusa? Dalla RAI alle Poste, come è stato fatto con la dirigente del PDL Forza Italia, che Renzi l'ha messa dalla consigliere della RAI a dirigere le Poste. Tutti quelli dovrebbero essere licenziati, ma con un buon uscita di zero centesimi. Sì. Marchionne in fonderia o al muro. Sentite, Gian Pietro, FIOM, Toyota, Emilia Romagna. Vabbè, senta, Gian Pietro, che ne pensa di Marchionne lei? Allora, Marchionne lo licenzierei, ma lo metterei eventualmente, o se no lo metterei a lavorare in fonderia. Sì, lei a lavorare in fonderia. Dove? Mettiamolo pure lei al muro, allora. Mettiamolo al muro, dai, mettiamolo al muro, fuciliamolo. Certo, io sono un ragionamento, è che... Cioè, come quante, certo, anche, scusi, anche perché vorrebbe fucilare Marchionne, lei, non ho capito, vorrebbe fucilare Marchionne. I padroni all'Eternit, quanti ne hanno messi sotterra? Per i padroni dell'Eternit ci vorrebbero i gulag. Non gliene frega niente se un padrone va sottoterra. Quelli dell'Eternit no. Bisogna ammazzarli, secondo lei? Se adesso è un processo il carcere, invece danno per prescrizione l'hanno. Vabbè, questo l'abbiamo portare. Saputo. E dunque che bisogna fare? Cioè, fucilarli col protone di esecuzione direttamente? No, non sto dicendo questo. Potrebbero esserci i campi lavoro, i gulag magari. I gulag, no, i gulag. Per Giampietro da Bologna le date di riferimento sono il 1789 e il 1917. Bruciani, ci andiamo a Dubai in vacanza? Io no, non ci vado a Dubai. No, vado... no, dico questi imprenditori assassini devono andare a Dubai in vacanza. Ma no, devono essere puniti, amico mio. Giampietro, non è gulag però, e Marchionne non è che deve essere appeso a testa in giù. Cioè... Vedrai che dopo capiscono come si suda la pagnotta. Cioè, ma lei che fa? Vorrebbe fare veramente la rivoluzione, cioè nazionalizzare tutto. Il 1917 o nel 1789. Cioè, gli operai al governo, questa roba qua. 1789 e 1917, quelle per me sono le due date riferite. Sì, ma c'è la ghigliottina, c'era però, ammazzavano la gente. Ma scusi un attimo, ma le multinazionali come la Coca-Cola o la Monsanto o quant'altro non c'hanno le squadre dove vanno a uccidere i sindacalisti? Ragazzi, questo qua era uno della FIOM dell'Emilia Romagna, abbiamo anche controllato, esiste in carne e ossa. Beh, certo che esiste, immagino, non è che... Ah ragazzi, dai, su. Andiamo, dove andiamo? Ah, Stefano da Lodi, che è sta lista di proscrizione, Stefano, non ho capito. Sì, ho preso visione in uno studio biblioteca di un rabbino del nord Italia, qui vicino a Milano. Uno studio di un rabbino del nord Italia. E che, come il mio amico sta facendo uno studio esegetico sull'Arcangelo Gabriele, quindi mette a confronto dei testi precoranici con il Mishnah ebraico. Vabbè, ma che vuol dire, Stefano? Allora? Niente, allora, stando in questo studio... che è anche biblioteca e avevamo visione di questi libri, mi è capitato sotto mano un fascicolo dove c'erano diversi giornalisti, penso di tutti di confessione ebraica comunque, vabbè, allora? Dove mi è apparso il fascicolo di Parenzo. Fascicolo? Sì, un fascicolo su Parenzo, su David Parenzo. Ma che fascicolo era? Non ho capito. Era un fascicolo dove probabilmente per facevano una selezione nell'invito di qualche giornalista a partecipare a un convegno o qualcosa, e ne veniva sconsigliato l'invito, l'invito proprio per la sua appartenenza. Schierato nella difesa delle istanze del mondo omosessuale, se ne sospetta la piena appartenenza, è l'ancella del pensiero omologato postcomunista, infarcito di falso buonismo, comune ai professionisti della carità pelosa, dove l'accoglienza... pseudo-coglienza fa da scudo ad interessi economici diffusi fino a sfiorare il lucro da sciacallaggio. È sempre allineato su posizioni ideologiche d'avanguardia dell'ovvio del banale, privo di un pensiero originale non supportato da radici culturali. Non è desiderabile e né atto a rappresentare l'identità ebraica, dal tono petulante, vocalmente disgraziato, quasi cacofonico, se ne sconsiglia l'intervento personale nell'invito in videoconferenza. Probabilmente c'era un convegno fatto. Siccome ne condivido parecchio la... Sì, però niente, è saltato. Vabbè, è saltata la linea. Anche i suoi confratelli. Sì, come voglio sapere dove ha trovato sta carta, sta roba, sta allora, roba. Dossier. Ma non esiste. Era uno studio di un rabbino qui del nord. Vabbè, le carte segrete. Ma lei è tanto che sta così? Le carte segrete della confessione alla quale appartiene. Lei è tanto che è in questo stato. No, ho capito. Lei è intanto che è in questo malessere, che ha queste turbe, questo malessere. Ma perché turbe? Sta raccontando una cosa. Siccome vedo che anche nella cultura ebraica c'è una certa diffidenza di personaggi come giornalisti, pseudo-giornalisti, come Parenzo, volevo essere solidale. Io non, purtroppo... Lei purtroppo ha bisogno di qualche... No, ho bisogno di qualche cura. Va bene, andiamo a Firenze, Sandro. Ciao Stefano, ciao. Poi ci dai questo dossier, ce lo mandi, vai. Sandro, vai. Sì, pronto. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, dimmi. Senti, l'altra sera io ho acceso la radio così, cioè vi sento ogni tanto, però all'otto e mezzo sulla radio nazionale come la vostra, per di più della Confindustria, sì. C'era la signorina Nappi lì, ho acceso, no? Sì, e di che parlava? Sì, che se trova uno gli sbora nel viso, lei è un complimento, cioè neanche vincere rimonta contro i Gobbi per noi fiorentini è cioè veramente il massimo questa ragazza, cioè. Lo so, ma è il mio intellettuale di riferimento in questo momento, ma non per questa massimo, ma non per questa cosa qua, cioè per questa cosa qui no, cioè è il mio intellettuale di riferimento per un sacco di altre cose che dice, poi ovviamente c'è anche questo aspetto un po' goliardico, diciamo, no? Ma voi siete al massimo del successo. Ora me ora, giocatevi la carta 10 minuti e vi chiudo la trasmissione e muori da eroe, cioè portaci muori la tu. Ma 10 minuti, ma già muori tu, ma già voglio morire, ma altro che 10 minuti, l'abbiamo mandata più volte, che devo fare ancora? Lo so, sfrutta l'occasione, tanto più di così il successo non è impossibile, la trasmissione va alla grande, cioè portacela 10 minuti in trasmissione tutte le sere, poi se chiudano almeno si sbrocca tutti, dai. Cioè tu dici portare la Nappi ogni giorno, 10 minuti, cioè 10 minuti ogni giorno, così così ti caccio, no? Ma c'ha ragione lui, Sandro, non è a tutti torti, dice bisogna finire alla grande, ma ti diamo il numero, la chiami tu così ti rilassi, no? Ma perché sera devi trattarlo così? È come gli allenatori che lasciano al successo, cioè che lasciano la squadra nel momento che vincano, cioè è uguale voi, cioè sfruttate il momento, entro 10 anni come minimo è un vicario più nessuno, cioè capito? Questo è vero. Cioè, meno tu di stai dicendo porta la Nappi ogni giorno 10 minuti a parlare gente che scopa, le numero gangbang uno, numero uno in assoluto, i cioè, neri, le cose, ma lo so, ma per me ma non per la Nappi, una come la Nappi, anche la Efe, quella, ma la no Nappi, ma non è come la Nappi la Efe, però è tanta roba anche lei, sì, cioè. Vabbè, ho capito quello che c'entra, però scusa Sandro, ma è uno, bisogna vedere pure come uno dice le cose, abbi pazienza, no, la Nappi è numero uno, l'altro giorno all'otto e mezzo su diretta nazionale, insisti di nuovo su questa diretta nazionale, per me ma dopo emozione vincere il rimonto a Gobbi, ma quanti, cioè, quanti ti ha anni dato ha la lei? Stessa emozione che vincere il rimonto contro Juve, la Juventus, questa la quanti sostanza anni hai te, maestro, quanti anni hai? 40, David. 40 anni, Sandro, non vivo, stai a pensare a Nappi. Vivo d'emozioni, capito? Ma ha ragione, vive d'emozioni, a Nappi gli dà emozione. Scusa, e noi dobbiamo regalare emozioni o non dobbiamo regalare emozioni? Che dobbiamo regalare? Riflessioni, filosofie. No. Sta parlando di guerre, razziste, lo può picchiare quello. Ma parliamo della Nappi, questa qui è la numero uno. Cioè, 10 minuti io mi fa un culo così 16 ore il giorno a destra e a sinistra. Il giorno, bello, cioè, quando dice il giorno. Ma sì, poi vuole sentire la Nappi questo qua. Vuole sentire la Nappi e vuole sentire i tromboni. Il nero e lo può picchiare il rom, vabbè, anche quello è buono, sì, però bene, ma basta, c'è bisogno, cioè noi, ma no, ma ha ragione Sandro, alla fine vedi non è che ha torto, poveraccio, cioè io lo capisco, lo capisco, sì. Ti capisco, cioè ti voglio abbracciare fortissimo, amico mio, no, va bene, vai, ti abbraccio forte, va bene, non te la prendere se ti abbraccio, ciao, portacela, portacela, ciao. Siamo ad alti livelli qua, Get your motor running. Head out on the highway. Ti prego. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Se qualcuno mi dice ti sborro in faccia, io lo prendo come un complimento. È un invito alla dialettica. Exploding to space. I like smoking lightning. Oh, abbiamo contattato l'ascoltatore, caro Parenzo, Giuliano Ferrara, hai sentito, a spada tratta contro Salvini, sì, ti voglio sì far ascoltare una roba, sostanzialmente cosa dice Ferrara? Dice che Salvini è come... È bravo ad attaccare i manifesti. Sì, vabbè, quello l'ha detto, l'aveva già detto in 2-3 interviste, un attacca manifesti, un bravo attacca manifesti, che però non c'è niente di male attaccare i manifesti. No, diciamo, ma lo diceva, come dire, appartiene alla cosiddetta militanza di base, no? Sì, non poi dice anche la serie B, è la serie B, è la serie B. Sentiamo questo passaggio sulla serie B, qui da noi ieri, la serie B, Ferrara... Io non la saluto politica, trovo fuori da questa dimensione, capito? Può fare dei colletti di quartiere, così nei campetti, al calcetto. Se non è un solista, è uno di serie B, è la serie B. Sì, è come si chiama? L'albino alla F, che può certo fare dei gol, ma non in Premier League, no? Allora, abbiamo con noi uno di quelli che si presenta come in futuro, anche se appartiene allo stesso partito, un rivale nelle possibili future, chissà quando, primarie del centrodestra, il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Ben trovato, ben ritornato alla Zanzara. Ah. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta, sindaco? Molto bene, grazie. Il suo strannuto, caro Tosi, ha fatto il giro del web oggi, ha fatto ridere tutti alla Rai. Ma perché? Che è successo? Ah, non sì. Hai visto? Ah sì, è starnutito in diretta. Poverino, vabbè, succede. Hanno riso tutti, lo si capisco. Hanno riso tutti. Quando starnutisco bene. Beh, scusa, ma poi uno che deve fare? Sta lì in diretta? Se non no, certo. Ma abbiamo pure lo starnuto di Tosi? Sì, facciamo sentire pure lo starnuto di Tosi, dai, via. Vorrei dare una lettura di quel commento che si dice che c'è una possibile ripresa. Il vero danno che ha espresso... Tosi ha starnutito. Vabbè, arrivo Tosi, arrivo. Vabbè, dai, è una cosa normale, dai. Ma su. Era potente, per questo il signor Greco ci ha dovuto dare il suo arrivo. Ma non hai sentito che poi il fragore che ha... Allora, io però voglio capire una cosa, ha ragione Ferrara quando dice che in fondo Salvini è un leader, non è il leader che può unificare, adesso io la metto in maniera meno volgare di Ferrara stranamente, però Ferrara ha detto un attacco a manifesti, uno che appartiene alla serie B della politica, o no? Ma, allora, Salvini è segretario di un partito politico che è la Lega Nord, l'ha presa in mano un anno fa che aveva il 4% scarso, Oggi viaggia, se ci fossero le politiche, al 12 o giù di lì, sicuramente sopra il 10. Beh, insomma, dire che è un leader politico strasso, uno che riesce a fare un'operazione del genere, è l'unico che ha indovinato la campagna elettorale. Gli altri l'hanno sbagliata, fallendo miseramente nel risultato. Vabbè. Però lei dice anche, mi sembra di aver letto da qualche parte, che non è un leader che può unificare. Cioè no, non è che ho detto questo, ho detto. Lei con titolo oggi. Ho detto, allora lui è segretario della Lega e ha portato la Lega a un risultato strepitoso. Dopodiché è chiaro che per vincere serve tutto il centrodestra, perché nessuno vince da solo. E lui può essere leader d'Italia. No, certo. E lui può essere leader del centrodestra o no? Allora, io dico, uno, che la Lega, grazie a Salvini, in primis, grazie a altri che danno una mano a far gioco di squadra, può recuperare anche voti più al centro, oltre a quelli diciamo più vicini a posizioni di destra, perché quello è stato anche elettorato da Lega. La Lega, quando ha raccolto il 35% in Veneto, percentuali simili in Lombardia, era un voto trasversale, molto molto alto. Oggi invece Salvini ha soprattutto un voto di destra? Diciamo che la destra l'ha rappresentata, tant'è che basta guardare il risultato delle altre forze di destra che erano presenti, sono praticamente scomparse, quindi lui è riuscito a raccogliere sicuramente tutto il voto che una volta faceva riferimento alla destra, ma su posizioni che oggi la gente sono posizioni che non è che siano di destra nel senso la destra fascista ideologica, nel senso di l'identità, la tutela del popolo italiano, la difesa del lavoro italiano, la difesa delle case degli italiani. Però diciamo la verità, Tosi, di destra forse è riduttivo, però lei è lontano mille miglia da queste posizioni. No, dopodiché appunto facendo gioco di squadra, e si fa gioco di squadra perché poi nella Lega c'è Salvini, c'è Tosi, c'è Maroni, c'è Zaia, ci sono Bitonci e tanti altri che hanno appunto capacità di traino e di consenso, e mettendo tutti assieme poi fai una partita più ampia. Dopodiché il leader del centrodestra non lo decide certo Tosi, non lo decide Berlusconi, lo decidono le primarie, perché è l'unico modo oggi per rimettere assieme il centrodestra, perché se si pensa di guardare quando Berlusconi, in maniera provocatoria, perché Berlusconi è persona fine intelligente, in maniera provocatoria ha detto il leader può essere Salvini, che putiferio si è venuto fuori. E lo stesso sarebbe successo se avesse detto il leader può essere Tosi, se il leader può essere Fitto, veniva fuori il fuoco di fila. Ecco, ma perché ha incoronato Salvini l'altro giorno? Può essere, sono alcune possibilità. Una manifestazione sincera di stima. Un'altra perché è milanista. Un'altra quella per vedere all'interno suo, siccome lui è una partita interna che è come Renzi. Sì. Renzi, quella minoranza che lo preoccupa di più è quella all'interno. E Berlusconi, quelli che lo preoccupano di più sono quelli all'interno. E quindi potrebbe essere... Voleva fare un po' di casino là all'interno. Per sparigliare all'interno abbia buttato lì sta bomba per vedere di nascosto l'effetto che fa. Ma non ci crede neanche lui, dici? Cioè neanche Berlusconi ci crede? Ma secondo me non ci crede. Allora il punto è, Berlusconi cosa vuol fare? Ma chi lo sa? Spiego, cosa vuol fare, perché, e questo l'ha detto anche con un'osservazione molto acuta Boso oggi. Allora Bosa, Minio Bosa, se vuoi guardarvi, ha fatto un'analisi molto lucida. Addirittura. Signor Bosa. Andatevela, Me lo presenti come fossi Galli della Loggia, Bosa, però. Lui dice. Berlusconi vuole vincere, punto di domanda. Sì. E allora, se Berlusconi vuole vincere, deve fare un'operazione di ricostruzione del centrodestra, richiamando tutti i leader del centrodestra, indicendo le primarie, facendo un programma. Ma in realtà non vuole vincere, questo è il punto. Se invece non vuole vincere, allora gioca a far casino, in modo tale che così Renzi va avanti tranquillamente, e il patto del Nazareno è un modo che alla fine gli garantisce la tenuta del patto del Nazareno, perché finché il centrodestra resta spaccato, Nazareno regge. Se il patto del Nazareno salta, Dici Berlusconi incoronando Salvini in realtà voleva creare scompiglio, divide e timpera. Questo è, può essere o no? Il patto del Nazareno si regge sul fatto che Renzi sta davanti e vince, e il centrodestra di fatto resta diviso. Senti, ma tu a te, con quella dichiarazione, Berlusconi non ha dato un gran messaggio di unità in centrodestra, tant'è che è venuta fuori la guerra mondiale. Ecco, ma quanto siete distanti tu e Matteo Salvini? Adesso diciamo la verità, Salvini. Allora, tu sei un uomo, ha dei problemi alla tua. Intanto abbiamo due ruoli diversi. Io sono non c'hai l'ebola, no? Non è che c'è l'ebola, sono, no? Io sono il sindaco di città. Flavio, non hai l'ebola, no? Non mi pare, mi fa di stare. Poverino. Star bene, no? Da qua 20 giorni, per adesso, se mi pare che l'incubazione sia. Cioè, voglio dire, adesso siamo sinceri, tu quanto sei distante dalla Le Pen? Adesso diciamola tutta, ti senti distante mille miglia dalla Le Pen, diciamola tutta, dai Flavio. Allora, io sono diventato sindaco della mia città raccogliendo voti in maniera assolutamente trasversale. Ok, d'accordo. Io ho una maggioranza dove ci sono esponenti della destra, però tra te e la Le Pen chi veniva da sinistra nella mia maggioranza, fa conto te. Tra te e la Le Pen c'è l'Adige, però, in mezzo. La Le Pen raccoglie solo ed esclusivamente un certo tipo di consenso. Io per diventare sindaco della mia città. Ma non vuoi che la Lega si chiuda in questo recinto lepenista? Voglio che la Lega, siccome la Lega sa far gioco di squadra, che Salvini è segretario federale perché una squadra capitanata da Maroni a un certo punto dice: il segretario federale è meglio che lo faccia Matteo perché è il più adatto a fare segretario della Lega. E abbiamo fatto gioco di squadra. Continuiamo a fare gioco di squadra. Io gioco su un'altra più al centro. Ma non era il bomber, ha detto Berlusconi. Un attimo solo che abbiamo la pubblicità, poi torniamo su questa metafora. Due giocatori sulla fascia, al centro chi c'è però a fare il bomber? A tra poco. Il vero danno che ha espresso Tosi Starnutito. La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Ancora dalla deposizione di Patrizia Daddario al processo escort a Bari, Parenzo. È l'unica cosa che mi interessa oggi, guarda, ti assicuro, è l'unica cosa che mi interessa. E gli espulsi? Non me ne voglia, Tosi. Allora, è straordinaria. È a Palazzo Grazioli, l'unica vestita ero io. Allora, siamo con il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Vorrei capire da Tosi se Berlusconi, poi torniamo sulle ali e i bomber, se Berlusconi secondo lei è ancora credibile come leader del centrodestra. Cioè, lui dentro di sé pensa e crede di... Ma ragazzi, ma che siete matti? Per solidarietà. No, ma ho capito, per solidarietà. Tosi sta veramente male. Ma tu? Calpesti? Io ho appena finito di giocare a pallone e ho avuto un colpo di tosse. Pure? Sì. Ma con quel stranuto che ha fatto non conviene nemmeno la magliettina della salute come Landini sotto. Verona ha bisogno di essere guidata in maniera da una persona che sta bene di salute. Ma sta bene, non è che sia anche di salute mentale, però. Sì, anche di salute mentale, è vero. Anche di salute Infatti, un brodino perché, di quelli, oppure, un brodino oppure, caldo. Oppure brodino. Le città hanno bisogno ogni tanto di qualche matto, secondo te? Beh, a Verona sì, perché veronesi tutti matti. Quindi. Dunque, hanno bisogno di un sindaco un po' matto, diciamo la verità. E l'ha trovato. Però scusi, perché uno perché uno dovrebbe pensare a fare il premier quando deve fare il sindaco della città? Cioè uno adesso, ogni volta perché che ti sento finito. Parlare, adesso alterniamo tu, lei, ogni volta che ti sento parlare ti dice il premier, sì, sono in lizza anch'io con Salvini, eccetera, ma tu devi governare una città, Flavio, scusami, te lo dico, una città meravigliosa che io adoro, sono molto legato. Adesso bisogna vedere quando saranno le elezioni politiche. Ecco, a proposito, ma Berlusconi è ancora credibile o no? Come allora, leader? Venendo a quello, Berlusconi si è fatto del Nazareno ha di fatto investito Matteo Renzi come leader. Oh, ecco, benissimo. No. Dunque, secondo lui dice, siccome io non vinco, meglio che vinca Renzi. Faccio il patto con chi vince e ottengo una serie di garanzie, l'accordo sul Presidente della Repubblica e una serie di altre questioni che si saranno dette lui. Sì, ma il suo erede naturale, l'ha detto pure Ferrara ieri, è Renzi. Lui si sente molto più vicino a Renzi che ne so, che a Tosi, che, oppure che a Salvini, diciamola tutta. Ma diciamo che quantomeno ha investito su di lui, perché lui, il Padre Nazareno, ha consapevolmente tenuto diviso il centrodestra, sapendo quale sarebbe stato il risultato elettorale, perché evidentemente crede molto in Matteo Renzi. Qualcuno diceva addirittura che si stava pensando a Tosi, ma questo non è possibile. Tu hai sempre detto peste e corna di Berlusconi. No, io non ho detto peste e corna. Beh, insomma, hai sempre detto che era finito. Dicendo, purtroppo, si vede che porto anche sfiga, dicendo come secondo me le cose sarebbero finite. E quando all'inizio del 2011 ho detto qua per il centrodestra va a finire male, se Berlusconi non cede la leadership e mette qualcun altro al suo posto, il centrodestra va a casa, ripeto, o sono stato premonitore o ho portato sfiga. Senti Flavio, ma non ho capito, ma allora, Berlusconi, per Berlusconi Salvini è il bomber, il centravanti, tu pensi invece che sia un'ala in realtà, cioè non è... No, allora, l'ala... Beh sì, l'ala, tu hai detto... Io gioco all'ala sinistra, io faccio come Pierino Fanna nel Verona, ovvio che Pierino Fanna è Pierino Fanna e Tosi è uno strano. E vabbè, però diciamo... No, io gioco alla sinistra, porto sulla palla e la metto in mezzo. Dopodiché lui evidentemente fa un altro Salvini ruolo. L'altra ala allora. L'importante è che poi tutti insieme, bisogna... Ma centravanti chi è? Non può essere uno della Lega. Bisogna andare a portare via qualche voto nel campo avversario. D'accordo, ma... E allora è come Renzi. Renzi fa finta di essere di centrodestra, fa finta di abbassare le tasse, fa finta di riformare e prende voti a tutti. Fa finta di fare la riforma del lavoro e così viene a prendere i voti nel campo del centrodestra. E noi dobbiamo avere la capacità di prendere fare la i stessa voti cosa. Da destra al centro e magari anche qualcuno nel campo del centrodestra. Però il centravanti non può essere uno della Lega, dici tu, il centravanti del centro. No, il centravanti lo decidono gli italiani con le primarie. Vabbè, però non può essere uno. Le primarie, sapete chi le vince? Chi secondo vince? Me oggi. Tosi. Se si va Tosi. Se si votasse oggi secondo me le vince il Berlusconi. Ah, ancora? Se si va a votare oggi, sì, ma anch'io, anche secondo me è così. La penso, le vince ancora il Berlusconi. Non Salvini? No, un po'. Se Berlusconi torna a avere agibilità politica e usa le televisioni come le sa usare Renzi, perché in questo sono molto simili, nella capacità di usare il mezzo televisivo e di comunicare in un certo modo. Altro che Salvini, dice. Le primarie, no, non è altro che Salvini, è un fatto di saper... Berlusconi è un ottimo commerciante, se non è, io ho molto rispetto per la teoria dei commercianti, e quindi in televisione funziona, è come Matteo Renzi, che Matteo Renzi vende... Ma anche Salvini funziona. No, Matteo Renzi dice quello che... Ma Salvini dice quello che pensa e quello che pensa lo farebbe. Ma qual è il limite di Salvini? Renzi vende una merce che non fa, però è buona da vendere. Ma da il vero difetto di Salvini qual è? Adesso dimmi la verità, Flavio, cioè il suo maggior difetto qual è? Dai, questo... Come fa a trovare un difetto a uno che... Vabbè, dai, ce l'avrà un difetto, dai, arrogante, che ne so. Cioè, uno si mette le dita nel naso, che ne so. Un difetto ce l'avrà, si veste male, beh, no, tu non puoi parlare. Bisogna chiedere alla sua compagna, mica ci vuole. Ma no, un difetto politico, un difetto politico. Un difetto politico, uno che porta un partito a triplicare i voti in un anno, è difficile trovargli un difetto politico anche volendo, vero? No, ma... Sì, ma non so, è troppo arrogante, ora si è montato la testa... Ci sarà un difetto che ha, no? Ha il cerchio, il Salvini cerchio, ma non lo so, avrà qualcosa, no? Ma ripeto, scusate, il colpo di tosse... Ha il cerchio magico pure lui? Perché il cerchio... Allora, chiunque, anch'io ho delle persone che mi sono più vicine... E delle persone che mi stanno... Vabbè, un difetto, però un difetto ce l'avrà o no? Sto Salvini. Adesso sembra imbattibile. Le copertine, chi? Un difetto colossale che ti fa Milan, per esempio. Che ti fa Milan? No, vabbè, d'accordo. Questo che ti fa Milan è un difetto colossale. Questo, però, con Berlusconi è una cosa importante. Anche Berlusconi c'ha quel difetto lì. Vabbè, d'accordo. Eppure Bobo Maroni. Ho capito. È una brutta malattia. Sei circondato. Ma al di là di questo, un difetto ce l'avrà, dai. Spregiudicato, che ne so. Qualche cosa. Ce l'avrà un difetto o no, sto Salvini? Uno. Penista. Oh, ma perché allora io capisco, voi siete dei ragazzi simpaticissimi e volete mettere Flavio Tosi contro Matteo Salvini. Tosi è un buon democristiano e quindi è un buon democristiano. Alla fine è un buon democristiano. Voi ci girate intorno della parte. Ma la cosa l'hai detta, la cosa l'hai detta. Flavio Tosi è più democristiano che leghista, è un buon democristiano. No, io sono un perfetto leghista democristiano. Ah, un perfetto leghista. È uno simbolo, è una contraddizione in termini. Perché se a Verona c'è un sindaco della Lega è perché c'è un sindaco leghista democristiano. Vai. Comunque, vabbè, senti, ti prenderesti i soldi da Putin? Tu, andiamo con le domande veloci. Dimmi la verità. No. Francamente, ci starei molto prudente. Cioè, non li prenderesti. Preferisco prendere 5 euro da un cittadino italiano e 50 da un imprenditore anziché 100 da un altro imprenditore. I soldi tanti di un solo sponsor sono sempre. Non li prenderesti? È delicato. No, rischi di legarti troppo. La risposta, però, deve essere unica. Li prenderesti o no? No. Perché rischi di legarti troppo, ma non perché è Putin. Perché ti faresti governare un grande sponsor, dopo ti leghi troppo. Ti faresti governare dalla Le Pen? Ma io sono in Italia, mica sono francese. Vabbè, ma i cugini ci scelgono i governanti che vogliono loro. No, d'accordo, ma ti faresti governare da uno come la Le Pen o no? O è troppo estremista? Piuttosto che da Renzi, addirittura. Renzi sta massacrandoci di tasse e di quant'altro, di insicurezza, di immigrazione clandestina. È meglio qualcuno che su quei temi fa qualcosa. Senti una cosa, ma Alfano Salvini non lo può vedere e Alfano non può vedere Salvini. Secondo te va ancora considerato all'interno del centrodestra oppure no? Ma secondo me, io ti dico, io quando vinsi, adesso non è che voglio parlare di università, ma faccio una metafora così ci capiamo. Io quando sono diventato sindaco, soprattutto nel 2007, avevo sia come alleati, sia magari anche in giunta, qualcuno che potevo starmi mica tanto simpatico. Però siccome c'era da governare la città e bisognava stare assieme per governare la città, se anche uno ti sta un po' sulle balle, ci alleati. Cioè c'è bisogno dell'NCD. Nell'interesse del centrodestra per governare in un certo modo. E quindi se l'NCD si chiarisce le idee, perché l'NCD avrà prima o poi una crisi e capirà da che parte stare. Quando capirà che il nuovo centrodestra dovrebbe stare nel centrodestra, allora sarà normale che il centrodestra li riaccolga, perché appunto per vincere c'è bisogno di tutto il centrodestra, non solo di una parte. Cos'è sto casino che cito? Dove sei? Sì, il campo da calcio. Fuori dallo spogliatoio. Spettacolare. La doccia. Guarda di coprirti. Non andare in doccia col telefonino. Ma sei ancora convinto che Passera possa essere lì un possibile leader del centrodestra oppure tu che sei amico di Passera? È un manager che ha dato disponibilità al centrodestra per far parte della squadra, come l'hanno data tanti anni. Cioè deve essere dentro secondo te? Ma ripeto, non è il centrodestra, è come il centrosinistra ha vinto perché ha saputo aggregare anche sensibilità dentro pure Passera, via. Dentro pure Passera. Sì, ma ripeto, ma perché no? Se tu fai se tu vuoi provare a fare uno schieramento ad escludendum, cioè uno dice io quello là non voglio, io non voglio te, io non voglio quell'altro che ha il naso lungo. Ma avete fatto una campagna contro Salvini ha fatto una campagna contro le banche pazzesca, quello è identificato come l'uomo delle banche. Vabbè, comunque. Passera con le banche. Da quando ha lasciato Magentera non ha più nulla che spartire. Ho capito, ma è esponente. Senti, l'ultima cosa, Flavio, ma il gay guarda che il governo Monti, il primo sponsor di Mario Monti è stato Berlusconi, vero? E i suoi hanno votato tutto il contrario. Non la Lega però, non la Lega. Appunto, ma sto dicendo, allora non dovremmo neanche parlare con Berlusconi che ha messo su Monti. Che ha messo su Monti, sì, certo. E dopo l'ha pure proposto come candidato premier dopo assolutamente. Senti, un'ultima cosa, ma il gay pride a Verona lo autorizzi o no? Cioè gli dai la tua... Io ho dato indicazione ai miei uffici che in questi giorni incontrano gli organizzatori per pianificare il percorso, per mettersi a disposizione per organizzarlo. È una manifestazione a diritto di tenersi. Ma dai il patrocinio? Dai il patrocinio oppure no? Ma non è questione di patrocinarla, la manifestazione non è, ripeto, quello che la democrazia è, che se uno vuole dimostrare e dire quello che pensa, secondo me ne ha diritto. E quindi se Gay Pride chiede di venire a organizzarsi a Verona, il comune di Verona si mette a disposizione per dare una mano a definire il percorso, a definire, perché insomma è una città. Ma lo sai che c'è la questione del patrocinio, no? Tanti. Dopodiché il patrocinio, siccome se uno dà il patrocinio è un'iniziativa che condivide. Io non condivido quel tipo di manifestazione perché secondo me danneggia la battaglia del mondo omosessuale, perché alla fine tende a spettacolarizzare quel mondo, quando invece è un mondo fatto di persone serissime, professionisti. E se c'è gente col culo di fuori, che fai tu? Metti che ci sia una manifestazione, che quello è, dopo è compito delle forze dell'ordine sanzionare chi fa oltraggio a, cioè, se uno si mette col culo di fuori non si può, ma non perché se fa durante il Gay Pride, se anche un cittadino veronese si mette col culo di fuori in Piazza Bra viene multato pure quello, non è mica c'è bisogno di fare parte del Gay Pride. Però se si mettono col culo di fuori multiamo, questo è il punto, se c'è qualcuno. Ma perché lo prevede la legge, mica perché uno ce l'ha. Comunque nessun patrocinio, però collaborazione per l'evento, giusto? Totale collaborazione, perché in democrazia è giusto che sia. Però così. Nessun patrocinio. Certo, perché ripeto, non condivido il modo che secondo me hanno di danneggiare la loro battaglia, perché ripeto, è una manifestazione. Sono intellettuali, professionisti, scrittori. E magari vanno pure a Gay Pride, si mettono con le piume. Grandi figure, e secondo me in quel modo lì, spettacolarizzando la cosa, rischiano solo di danneggiare, appunto. A presto, arrivederci, buona doccia. Romualdo, provincia di Monza. Romualdo. Sì. Pronto, mi sente? Sì, dimmi, Romualdo. Buonasera a tutti e buonasera ai radioascoltatori. Vabbè, dai, non la fare lunga, dai. Dottor Cruciani, io volevo dirle semplicemente una cosa, che è un po' di tempo che non ascoltavo Radio 24, sì. Specialmente la Zanzara, vabbè, godo solo al mattino, vabbè. A sentire? Radio Alino Milan, sì, poi? Stasera, vabbè, ho detto io, mettiamo un attimo la Zanzara, vediamo che succede. La prima cosa che sento sì. Sono le parolacce che dice. Quali parolacce, scusi? Costantemente, ma che vado a fare in culo, di qua, che di là. Sì. Ma quando è che cambia questo linguaggio? A me, io la Zanzara non l'ascolto più perché non mi piacciono le parolacce. Bene, ottimo. Non è un bel linguaggio, io non so come cioè, ma cambia un pochettino, no? Ottimo, non ti piace? Ma non mi piace. Spegni, ma non mi sembra che sia ancora qui, però. Ma non è che devo, ma sono qui perché è un servizio pubblico e comunque. Ma non è servizio pubblico, quella è la RAI, un'altra cosa. Sì, vabbè, ma. Quella è la RAI, è un'altra cosa. Come? Io voglio dire, ma fai così fatica a non dire le parolacce, essere una persona corretta. Sono affari miei. Ma sono affari tuoi. Io non so come mai ancora, cioè. A parte che è successo che c'era una volta, non c'è più. Sì, ma questo chi lo dice? Lo dici tu? Sì, no, lo dico io, lo dico. Chi lo dice? Amici, lo dice. Lo dice chi? Chi segue? Lo dice chi segue? Sì, chi segue chi? Chi segue chi? Che non c'è più il boom di. Non c'è più il boom. Il boom ce l'hai in testa tu, il boom. In testa ce l'hai il boom. All'origine, quale origine? Quale origine? Di cosa parli? Non sai di cosa stai parlando? All'origine della Zanzara. Io ti rispetto perché sei uno che ascolta la Zanzara, però. Ma ci mancherebbe altro, ma anch'io. E allora ti abbraccio fortissimo, stai tranquillo, stai calmo. Ma stai no, tranquillo. Io sto tranquillo, guarda, mi dispiace veramente che. Ti dispiace, io ti abbraccio fortissimo, ti adoro lo stesso, ti voglio bene, ascoltaci, no, se puoi. Bacio, no, sei più dolce tu e il tuo collega. La dolcezza, ma che vuol dire la dolcezza? Io sono dolce quando dovevo essere dolce, non è che sono dolce per. A ridaglia queste parolacce, le parolacce fanno parte della nostra vita quotidiana, se vuoi ti posso fare un trattato su questo. Di quale vita quotidiana? Anche della tua vita quotidiana, le dici tu ogni tanto? La mia no. Vabbè, pazienza, non le dici. La mia no, e vedi, sono le persone come lei che comunque. Sì, rovinano la società, i ragazzi. Certo, esatto. Sì, questo è una cosa tremenda. Deve prendere atto e deve essere cosciente di questa cosa qua. Sono perché molto comunque, cosciente. Sto rovinando le coscienze. Infatti ci sono un sacco di malvissuti in giro. Sì, ci sono dei malvissuti, come dice Parenzo. Sì, ci sono malvissuti. Lei fa parte della squadra. Quale squadra? Dei cattivi maestri. La squadra dei cattivi maestri. Ci sono. Vabbè, siccome non la voglio insultare perché lei sta delirando, assolutamente. Ti abbraccio fortissimo, ti do anche un bacio in fronte. Arrivederci e grazie. Ciao Romualdo. Oh, che è successo? È successo che i calciatori della Roma, dopo il pareggio contro il CSKA di Mosca, pare che siano andati in uno strip, in un locale per striptease a Mosca, no? Capito? poi ci sono state delle precisazioni e tutto. Vabbè, ma questo non mi pare grave. No, ma infatti non è grave. Però volevo sentire da una delle più accanite tifose della Roma che conosciamo, un tifoso VIP della Roma, cosa ne pensa di questa cosa? Ci vogliamo mettere in collegamento un attimo col suo ristorante? Ma non risponderà, ma figurati. Ma come non risponde? Ma c'ha da fare, avrà una volta da fare. Sentiamo. Pronto. Oh, dottoressa Cancellieri, buonasera, come sta? Buonasera, quasi è vergognoso. Ma cosa? Ma non ho nemmeno parlato. Ah, l'espulsione dei 5 Stelle, lei dice. Che cosa? L'espulsione dei 5 Stelle, vergognosa. Ma di che sta parlando? Ma penso, non ci si mette pure lei, sono già di pessimo umore. Che è successo? Perché è vergognoso, è inammissibile, scandaloso. Jobs Act. Ma che è successo? Lei sta parlando dei giocatori della Roma che sono andati. Pensavo parlasse del Jobs Act. Ma lei è arrabbiata perché i giocatori sono andati in questo locale? Perché sono andati questo? Ma no, perché tu devi essere arrabbiato? No, hanno fatto benissimo. Hanno fatto assolutamente bene ad andare a sfogarsi in questo strip club. Ci mancherebbe, sa? Voi cruciani le cose benissimo, la carne è debole. Poi io ne so qualcosa, essendo particolarmente procace e voluttuoso. Ma come procace e voluttuoso? Che c'entra? Ma allora perché è arrabbiata? Non ho capito. Come perché? Lei pensa che avevo proposto a De Rossi e Garcia una partita a strip poker nel mio locale e hanno rifiutato, sti zozzoni. Però allo strip club russo ce l'hanno, sti figli da mignotto. La pensi un po', mamma? Ma scusi, è stato ministro lei, ma che si parla? Ma, scusi, signora Cancellieri, io pensavo che fosse arrabbiata. Uno per il pareggio della Roma all'ultimo secondo. Oddio, non è che mi abbia fatto molto piacere questo. Certo, e secondo per la visita a questo strip club, alla sera dei giocatori della Roma, invece non gliene frega niente solo perché non sono venuti nel suo locale. Vabbè, voglio dire, scusi tanto, era sempre una ragione da poco, ma Cruciani, ma lei come la giura? Non lo so, lei vabbè, questa è ormai è andata, come Berlusconi, è andata. È vergognoso. Ma io mi sono basito, pensavo parlasse di politica. Ma no, politica, ma lasci perdere. Ma che gli frega ormai? Io lavoro alla gatta, no, non è che non mi frega niente, per carità, però lavoro alla gatta buia. A proposito, volete delle fettuccine, se avete piacere, dei tonnarelli, cacio e pepe, sono favolosi quelli che faccio io. Vabbè, vedremo, sempre a mangiare. Vedremo una volta. Meraviglia, venga, magari facciamo uno strip poker. Dicono che perché lo strip poker? Va bene, ma non ho capito, ma lei è impazzita, cioè l'hai presa l'ormone a non so a che età, ministro Cancellieri. Vabbè, arrivederci. Ma gli è preso l'ormone. Arrivederci. Arrivederci. Oh, andiamo a Roma, Paolo. Buonasera a tutti. Dimmi. Allora, volevo dire una cosa brevissima su Grillo, però mentre che aspettavo ormai un'ora, ho sentito quel signore della FIOM che secondo te Cruciani ha influenzato poi l'affluenza. No, la FIOM pare, poi non so se è stato quello a influenzare. Una delle cause forse. Ma guarda, lasciami dire questo, io ho molta simpatia per Renzi, sto tutto sommato facendo il tipo perché riesca il suo tentativo, allora? Però alle regionali non ci sarei andato a votare con quello, voglio dire, sicuramente anche a Roma con quello che i consiglieri regionali, tra l'altro ce ne sono pochissimi renziani, e lì in Emilia Romagna 41 su 53 erano indagati, ma se stavo lì non sarei andato a votare. Quindi chiudo la parentesi, quel signore secondo me è la dimostrazione di quando l'ideologia ti acceca letteralmente il cervello, in questo caso l'ideologia comunista. E io guardi, sono uno di sinistra. Beh, a me lo dice, certo, ma quello secondo me è un matto totale. Io sono d'accordo con lei Cruciani, però volevo dire acceca, perché uno può pensare poi una cosa un po' goliardica, se noi pensiamo in tutte, lo vorrei dire a tutti coloro che ascoltano, in tutte le latitudini, in tutte le longitudini, in tutti i momenti in cui il comunismo è uscito dai libri ed è stato applicato nella realtà, ha portato a tragedie terribili, anche per le cose che diceva il signore, lui vorrebbe mandare nei gulag gli imprenditori. Sono cose veramente che fanno accaponare la pelle. Ma quello là era un delegato sindacale della FIOM, risponde di quello che dice. A me non deve rispondere nessuno. A me è importante denunciare, secondo me, dal mio punto di vista, per me può rispondere a chi vuole lui, è che è così chiaro, no? Il suo esempio di come l'ideologia possa accecare le menti e portare a delle cose violente, perché lui, quel signore lì, le cose lì le diceva, era convintissimo. Se fosse per lui, Marchion e compagnia bella dovrebbero andare nei gulag. È questo che lui ha detto, e sono sicuro che lui, se dipendesse da lui, se lui avesse il potere, lo farebbe domani mattina. Non mi pare. Lo hanno fatto. Sì, lo farebbe subito. Come no? Lo farebbe subito. Mi sembrava una persona violenta. Vabbè, grazie. Okay, grazie. No, un'altra cosa, posso dire una cosa su Grillo? Dimmi. Scusate, voi non avete sottolineato un fatto, mi permetto di dire che Grillo, quando adesso vuole espellere queste due persone perché non avrebbero pagato, non avrebbero dato una parte del loro stipendio come era stato sottoscritto, lo ha fatto subito dopo il fatto che loro lo hanno criticato il Movimento 5 Stelle dopo le regionali. Allora perché non l'ha fatto prima? Cioè lui ha colto il fatto che questo questo è corretto, siccome i due che sono che non avrebbero restituito una parte del loro stipendio avevano anche criticato tra l'altro i 5 Stelle o comunque Grillo, la leadership, quello che volete, alla fine hanno colto difeso Grillo. Se loro avessero difeso Grillo, cioè, di fronte lei dice che non l'avrebbe cacciati. Mai, non avrebbe mai tirato fuori. Questa è una cosa da sottolineare. Vabbè, grazie comunque per lo spettacolo che mi date sempre. Grazie. Ciao, grazie. Allora ragazzi, voglio farvi ascoltare le parole di un prete adesso. Don Albino Bizzotto. Don Albino Bizzotto è dei beati costruttori di pace di Padova, il quale sta facendo una battaglia a favore dei Rom. Allora, Don Albino Bizzotto dice a proposito solo a favore dei Rom, però stai tranquillo, mi fai dire a me. È un'altra cosa. Però. Sì, ma non c'entra a niente. A favore della legalità. Sì, ma non me ne frega un cazzo. Un attimo solo, fammi riassumere. Allora, Don Albino Bizzotto prende le parti di due Rom. I quali sono ai domiciliari, in realtà non sono nemmeno ai domiciliari perché uno sta in macchina eccetera eccetera, e dice che questi qua dovrebbero andare in una situazione meno disagevole per loro, no, giusto, in una casa che in realtà è una roulotte. Ai domiciliari in una casa, sì, in una roulotte, si dà il caso che questa abitazione, questo fabbricato, secondo i carabinieri è di proprietà di un signore che è un mezzo criminale, e dunque hanno detto di no. Leggo dai giornali locali di Padova: scarcerate quei due nomadi. In realtà non è scarcerate, toglieteli dai domiciliari e mandateli a casa, perché ci sono i figli, ci sono le mogli, quello che è. Sta facendo la battaglia per questi due nomadi, i quali sono accusati di furto, ricettazione, associazione a delinquere eccetera eccetera, perché fondamentalmente sono accusati, per carità, non sono stati ancora condannati, sono accusati di essere dei ladri. Questa è la sostanza. Allora, in Italia siamo il paese del buonismo. Secondo Bizzotto, però, questa è la cosa più clamorosa che è uscita fuori quando l'abbiamo sentito, dovrebbero andare a casa di Galan. Sentite. Casa di Galan devono andare. Sarei contento che il giudice li mandasse ad usare qualche stanza di quella villa, che per loro, perché non si può mettere uno nella condizione di dormire in macchina. Galan è ai domiciliari in villa, invece i poveri cristi no, continua a tossire in diretta, vai. Che devo fare? No, ma ho capito, ma al microfono uno si sposta, no? Dai. Io ho tentato di trovare delle possibili soluzioni per chi aveva gli arresti domiciliari. Qui abbiamo gli arresti domiciliari in villa cinquecentesca con Galan e compagni, e abbiamo la impossibilità di avere gli arresti domiciliari per i poveri cani che ci sono in giro. Posso dire che non c'entra veramente una mazza questa roba, al di là della battaglia quando giusta. Quando vuoi ti spiego. No, ma al di là della battaglia che può essere, come dire, di un prete a favore dei più poveri, a favore di quelli che lui considera, quelli che lui considera i più disagiati. Ma non è più povero, è un principio. Aspetta, cioè, se uno è considerato senza fissa dimora, questo è il punto. Ma non no? C'entra un cazzo la villa di Galan, quella è domiciliare a casa sua. I ricchi hanno la possibilità, ma diceva come paradosso, ovviamente. Ma no? Non è vero. Cioè, dice, se c'è qualcuno che comunque può stare tranquillamente in una bella villa, ma esiste. In Italia, nel mondo capitalistico esistono i ricchi ed esistono dubbio, i poveri. Ora, cosa diavolo c'entra la villa di Galan con questo ragionamento? No, lo diceva dicendo come qualcuno chi ha la lo casa. Lo diceva perché l'ha detto, basta. Chi ha la casa ha la possibilità di scontarlo là. Ora si tratta di prendere queste persone e dargli la possibilità non di essere liberi di girare per Padova, non a casa dei criminali, ma di scontarla in un contesto comunque di reperibilità. Non a casa dei criminali. Di diritto che diceva lui. Non a casa dei criminali. Non a casa dei criminali. No, capito, ma fermo, c'è un indirizzo, un posto della pubblicità, andare. Ma quale indirizzo? A casa dei criminali, dai, no, su. Che i carabinieri sanno dove li trovano, detto, via tal dei tali. Tu sei contro tizio. I carabinieri che hanno detto di no. Cioè i carabinieri hanno detto di no, sbagliano i carabinieri e ha ragione il prete. No, dico che può essere applicato pazzesca. Lo stesso principio ma per che tutti ne sai i tu, presunti hai letto criminali. Le carte, se i carabinieri hanno detto di no, ho detto per no, tutti dai. I presunti criminali. Sfruttati il momento, entro 10 anni ma il minimo è un vicario più nessuno, cioè, capito? Girl. quest'uomo ha chiamato da Firenze e vuole ogni giorno 10 minuti di Valentina Nappi. Allora, Filippo Facci, mio amico Filippo Facci, è andato a Class TV. Sì, dallo schiaffo. È saltato addosso al conduttore, poi ha detto che c'ha l'ernia del disco. Che ha detto? Filippo, abbiamo iniziato con te che mi dicevi: io questa sera penso di poter far tutto, anche di saltarti addosso. Non mi sei saltato addosso, non so se prenderlo come un successo o non successo, ma è stato un piacere intervistarti. Aiuto, ho l'ernia al disco. Aiuto. Ragazzi, arrivederci. Cioè, gli è saltato addosso, ma in realtà è il conduttore che ha l'ernia al disco, eh? Ah sì. Non lui. Ancora Facci, se Della Valle si mette a fare politica, sentite, eh? Proprio la dimostrazione che la vita è brutta, guarda, se uno come Della Valle dopo tutta la vita si mette a voler far politica. No, guarda. Dai, non mettiamola così, non chiudiamo con questo velo di tristezza. No, l'unica è suicidarsi, cari telespettatori. Ah, vabbè, no, ti prego. Siamo ad alti livelli qua, eh? Allora, grandi ospiti ragazzi, mentre adesso ve lo presento l'ultimo ospite di stasera, Gianni Morandi dice che la sinistra, io quando comincio a sentire Nemici di Renzi divento più renziano di Renzi. Morandi, la sinistra di Renzi non è una sinistra, non sono andato a votare, Gianni Morandi. Sul voto a Bologna. La sinistra di Renzi non è più una sinistra, cioè, io vengo da lontano e c'è stata una trasformazione, troppo, vabbè, sono cambiati i tempi, è cambiato il mondo, però ho detto che nelle elezioni che sono state fatte in Emilia Romagna c'è stata molta delusione, quindi poca partecipazione al voto, quindi c'è stata delusione, io non sono andato a votare. Mamma mia, che tristezza che mi fanno venire queste cose, però bisogna prenderle in considerazione, no? Abbiamo con noi il grandissimo Morandi. Massimo Boldi. Ciao Massimo. Oh, cari ragazzi, come state? Bene, bene. Ciao, Cipollino. Ciao, Cipolloni. Stavo ascoltando la voce di Gianni Morandi, mio grande amico. Gianni, però la sinistra non è più la sinistra. Digli qualcosa, Massimo. È rimasto deluso da Renzi. No, io, guarda, è meglio che non parlo di politica, se no crolla tutto. No, ma facciamo crollare tutto, come no? A noi piace quando crolla tutto. Scusami, ma adesso... Quando io negli anni 90 entrai nel Partito Socialista, sì, di Valentino Craxi, sì, crollò il partito. Poco dopo crollò il partito. No, subito dopo 2 mesi. Ma mica per colpa tua. Ma un po' si somigliano. No, è strana la cosa. Un po' si somigliano, secondo te, Craxi e Renzi? No, un po' sì, dai. Secondo me, ma no. Molti dicono, in che senso? No, molti dicono che il piglio, il decisionismo, no, l'atteggiamento anche un po' sprezzante, arrogante. Come si è preso il partito? Molti lo dicono, molti analisti, analisti, non noi che siamo dei cialtroni. Guarda, sentendo e vedendo la televisione, le radio, leggendo i giornali, ti dico una cosa: che non si capisce più un tubo. Non si capisce nulla, Anche tu sei confuso? Anche il tuo amico Grillo. Ma molto confuso. Cioè, tu sei stato anche berlusconiano, diciamo, no? Diciamolo tu. Ecco, hai detto bene, sono stato anche berlusconiano. Anche berlusconiano, non solo berlusconiano, però hai votato come un sacco di gente in Italia a Berlusconi. Oggi, a chi ti vuoi... Cioè, questo Renzi, ti piace o no? Beh, non è mica male. Non è male, eh? No. Non è male, Renzi. No, cioè, no, è il degno... Qualcuno dice il degno erede di Berlusconi. No, forse no. Erede no, però un po' gli assomiglia. La novità, la freschezza dell'uomo, forse gli piace questo... Che ti piace di Renzi? Che ti piace di lui? Ma sarebbe da fare un discorso molto serio, a parte, probabilmente. Però è una persona simpatica, è uno che sa parlare molto, e sa intavolare bene i discorsi, sa raccontare ed è molto acuto. Poi non lo so, io penso che cioè, lo voteresti? No, io penso. Io non voto, adesso l'ultima votazione non sono andato, e non so se andrò a votare ancora la prossima volta. Sì. Pro- Probabilmente Renzi ce la farà, io me lo auguro tanto, perché se ce la fa lui ce la facciamo tutti quanti. Allora, devi sapere, caro Parenzo, che l'11 dicembre esce un altro film favoloso. Ma tu di che segno sei? Di Neri Parenti, insieme a un sacco di attori. Ambientato a Parigi. Allora, Neri Parenti è il regista con cui io ho lavorato quasi sempre nei film di Natale. Io infatti la mia carriera l'ho praticamente fatta con Neri Parenti e con Carlo Vanzina. Senti una cosa, ma ancora tirano questi film di Natale? L'altro giorno ho saputo... Ma io me lo auguro, non lo so. Vabbè, no, ma ancora tirano, nel senso che l'altro giorno in televisione hanno mandato un film che ha fatto un sacco di ascolti. Molti ascolti, un 3 milioni a Natale mi sposo, un film che ho fatto io e che avevo prodotto anche. Ma tu capisci, Parenzo, che ancora l'ho visto anche ancora, alla fine questi sono i film che ancora tirano. No, ma poi c'è anche un fatto che ho ricevuto centinaia di tweet di Twitter. Facebook, eccetera. Quello è, questa roba qua. Sì. Ma cioè, si può dire che Boldi ancora tira? Beh, Boldi. Non gli tira, non gli tira. Questo non lo so, questo. Questo gli tira. Ma qual è la io storia direi qua? Che Boldi tira per quello tira. Che è Boldi. Ma sai che cosa c'è? Che il personaggio Boldi è un personaggio amato da grandi e piccini, o comunque. Ma c'è anche Siffredi in questo film? Ci dovrebbe essere anche Rocco Siffredi? No, questo non c'è Siffredi. C'ero in un altro film Siffredi, no. Questo no. No, qui c'è Gigi Proietti, c'è Vincenzo Salemme. Senti, ma qual è la storia qui? No, perché no, c'è Parigi anche, no? Sono degli episodi, sono 5 episodi. Scusate, che parlano. Che è successo? Che stai a fare? No, niente. Non sei al ristorante dell'altra sera, devi sapere. No. Ci siamo incontrati io e Massimo Boldi in un ristorante l'altra sera, un ristorante a Milano, Alta Giura. Sì, ma ci andiamo ancora. Ci dobbiamo andare, però. Lo conosco benissimo, certo. Ma dobbiamo andare però a cenare. Tu mi hai detto che sei in contemplazione, che non mangi. Ma io mangio poco. Scusa, mi hai detto, ma andiamo a cena. Vabbè, ma basta assaggiare, bisogna degustare. Non bisogna mangiare tanto, dici, solo degustare. Io bella c'ho vita una fame, che fate. Io ogni tanto ho una fame pazzesca, una fame della Madonna, come si dice in gergo, dai, su, una cosa pazzesca. Senti, ma allora, stavamo dicendo che sono 5 episodi che praticamente parlano di segni zodiacali, di quello che Ma che te frega durante la giornata. Poi lo vedremo. Senti una cosa, ma adesso nella politica italiana, caro Massimo, c'è un personaggio emergente, un personaggio del nord come te, che si chiama Salvini. Ecco, sono Salvini. Ti appassiona questo Salvini? Non ti appassiona? Quando lo vedi, che effetto ti fa? Ma non lo conosco io, so che è di Varese, ma non lo conosco. Vabbè, non lo conosci, però che effetto ti fa Salvini? Cioè, è uno che di cui ci si può, timore un po', forse. Ci si può fidare o no? Insomma, è uno che parla anche lui molto chiaro. Sembra un po' un altro Renzi, è tutta la nuova generazione. Però. No, però niente, però lascialo parlare. Lascialo parlare. Massimo, giustamente dici, siccome i miei film vanno a vedere sia quelli di destra molto che quelli di sinistra. Ma tu devi sapere che i miei film sono specialmente visti dagli extracomunitari. Come dagli extracomunitari? Ma una cosa ma tu stupendo non hai idea. Questo. Ma veramente? Ma tu, quando io prendo il treno per andare per partire, per andare a Roma, o comunque sono in un posto, ma tu non hai idea di quanti sono egiziani, filippini, senegalesi. Capoverdini, insomma ce n'è di... Per cui dici, non è che posso dire che sei Salvini, cioè... No, per l'amor di Dio, ho visto il tuo film bellissimo, io tu sei bello Cipolino, come ti chiami tu? Fammi fotografia con te. Ma veramente così? Sì, ti giuro. Beh, stupenda questa cosa qua. Perché imparano l'italiano con i film di Boldi, capito? Come l'italiano con i film di Boldi, bravo. Com'è che fanno un altro che ti fa con Cipolino, fammi fare fotografia. Guarda che lo fa anche Abdul. Vai Abdul, vieni qui, anche Dito, dalle dito, fammi fotografo. Per cui se, come dire, amico mio, se vince l'Italia di Salvini per te è una rovina. È un disastro. Cioè se arrivano io, tu sei per l'immigrazione incontrollata, diciamo. Venite tutti in Italia, così. Venite tutti al cinema, a Natale. Senti Massimo, ma... no, questa cosa è incredibile. Questa è fantastica. L'altro giorno ho letto dei tuoi tweet. Adesso ti sei appassionato a Twitter, secondo me. Sì, ma sono già diversi mesi. Allora, con la signora Nappi, la signora Valentina Nappi, che è diventato il mio idolo recentemente. Altri livelli, Allora, un livello no, altissimo. Ma tu pensa, allora io ricevo un tweet dove c'è questa signora in una foto pornografica. Sì. Allora, rimango a bocca aperta e sì. scrivo, ma è possibile che una ragazza così acqua e sapone puntini cosa lo so. Mi è capitato addosso, ma tu non hai l'idea. Ma lei no, ma soprattutto che cosa ti ha risposto lei? Ma lei, ma io non credo che sia neanche lei probabilmente. No, è lei, come no? No, assolutamente lei, ma la conosco io. Ha fatto una risposta troppo spiritosa. Perché mi piacciono le gang bang con 12 neri. Ma a te secondo te che cosa è successo? Io non ho risposto. Gang bang anali, gang bang anali. Ah, giusto, sì. Sempre il dettaglio. Tu forse tu forse pesantissimo. Ma la gang bang sai cos'era? Sì, sì, sai cos'è. Beh, insomma, c'è una certa età, insomma, voglio dire. E che ne so, magari appunto perché c'è una certa età, se sono termini così di tutti. No, però non mi appartiene, ecco. Appunto, non ti appartiene, cioè tu sei uno, da questo punto di vista, non sei, serissimo, non sei uno sporcaccione, diciamo, no? No, io non penso proprio di no, insomma. Ma però non c'è niente di male a fare le mucchiate, eh? Non è che c'è niente di strano. Ah, lo so, però insomma, poi dette così... Detta così brutalmente ti è venuto un po'... Ma poi rimango anche male perché... Sei rimasto così, male, una bella ragazza, acqua e sapone, bella, simpatica... che fa le gang bang, ma poi lo faranno per denaro, lo faranno come faranno, però insomma trovo molto strano, lo so, strano, e vabbè, fai film porno, guadagna col porno per adesso. Posso leggerti la battuta più bella di Twitter di oggi, secondo qual me è? L'ha appena fatta Paolo Madron sulla vicenda 5 Stelle, in cui scrive: i film del Movimento 5 Stelle, il giardino dei finti scontrini. Il giardino dei finti scontrini. Senti, tra l'altro Boldi è anche abbastanza anti-juventino. L'altro giorno, credo ieri, dopo quella non è che sono anti-juventino, mi arrabbio perché dico: porca miseria, ma questi ragazzi qui vincono sempre loro, Dio buono. Ho capito. Ma loro c'hanno una grossa fortuna che hanno un pesce cane e hanno Buffon, che è un portiere straordinario. Scusa, pesce cane chi è? Tevez. Ah, Tevez. Ma rubacchiano anche un po', secondo te? Sgraffignano, ma un po' lo fanno tutti. Però anche loro sono bravi. Però no, ma poi dopo mi arrabbio. Solo che io dico: ieri sera il gol che hanno fatto, Tevez, ho detto: Dio buono, ma è proprio un culo. Dio buono, è un culo terribile. Questo non è fortuna, ma addosso mi hanno dato addosso in 10.000. Vabbè, ma sai, juventini pure là vanno, molti di quelli vanno a vedere i tuoi film, però dicono: i tuoi film di merda, devi stare schiscio. Devi stare attento pure con i juventini che guardano Madonna, i tuoi film. Ma poi io, insomma, pazienza, andranno ugualmente. Vabbè, comunque Berlusconi dice che Salvini può fare il bomber. Per carità, per te, se facesse il bomber il leader del centrodestra sarebbe un disastro, tutti gli immigrati non vedrebbero più i tuoi film. Capito questa metafora? Berlusconi che dice: Salvini bomber, lui fa il regista. Lui è un uomo un po' speciale, particolare. È un uomo speciale, ma bisogna capirlo. Ma lo vedi finito Berlusconi, oppure ancora qualcosa da dire alla politica italiana? Tuo amico Berlusconi, tu sei molto amico di Berlusconi. Ero grande amico. E che è successo dopo? No. Ma non è successo niente, solo che non ci vediamo più. E come mai? Dovresti chiederlo forse a Mediaset. Ma come mai? Che è successo con Mediaset? Ma non succede niente, è lì il fatto. Succedesse qualcosa, non succede. Cioè, perché niente. C'è Mediaset? Lo ignorano, ignorano questo. Ma tutto. Non Mediaset. Secondo me pensano a ringiovanire la rete, non lo so io. Forse. Ma ti senti un po' deluso da questa cosa? Sì, molto. Molto deluso. E ne hai parlato con Berlusconi? Volevi parlarne? Sì, ne parlai ancora mesi fa. E lui? No, ma ci mancherebbe altro, poi non succede niente. Non succede niente. Ma perché? Chi è che non ti vuole là? Ma chi lo sa. Chi lo sa, ma comunque... Sarebbe una bella sorpresa. Comunque è una cosa che veramente ti ha messo tristezza questa cosa qua. No, mi ha messo tristezza. Cioè ti senti un po' tradito? È una delusione. Sì, da Berlusconi ti senti tradito un po'? Sì, un pochino sì. Ti senti tradito, eh? Va bene, grazie Massimo, un abbraccio. Ciao, andate a vedere Boldi, che è sempre il numero uno. Ciao Massimo. Cipollino, dobbiamo andare a cena, Cipollino. Va bene. A cena, ciao, presto, ciao. Ragazzi, ci sentiamo domani, 18.30, siamo live dalla Fiera di Milano, ciao. Almeno tutte le donne dovrebbero provare che cos'è una DPI o che cos'è una gangbang. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono manifestazioni indegne. Radio 24. La passione si sente.